Oigo, ne vuol matta cazzo semaforo. Cade ci la sua papà a porfera. Senta che madore, eh? Che date ci ci legge con un pedurbo. È modificato, guarda chi marmitta c'è frigato, inoltre è ribassato con sospensioni Simoni Racing e alettoncino Cadamuro Racing e kit estetico Bertucci Tuning. E non poteva mancare usi tu della Sparco, Sparco, Sparco, Sparco, Sparco. Così ci vai pugno a Viale Parco, a Viale Parco, Parco, Parco, Parco. Cuore sbirrozzi che mi inseguano, ma tanto io c'è miso un spray su patarga. Così l'autovelox rimane affricato, ha visto chi in mezzo maglio elaborato. In prestazioni da Formula 1, da 0 a 100 in 4 secondi. Senza per mi fare tutta la vivenza. mezza, per scaricare sa potenza e su mezza gioca raggiungia i 300 km/h. Ma dico, che con questo mezzo ci sbondo pure il Schumacher.